e ancora sono a scrivere di te. In questa notte senza stelle a colorare questo cielo sconfinato come un mare, dove nuotano confusi i miei perché. E tu dormi e vorrei farti sognare, e l'angoscia sale ancora dentro me. La città si è spenta e tutto attorno tace. Poche luci non le basteranno mai a riempirla di magia come vorrei. Basteranno per trovare un po' di pace. E tu dormi ancora e forse non lo sai che l'angoscia che mi dai mi fa felice. È tardi e non ho voglia di pensare, ed il sonno inizia a vincere anche me. E il pensiero allora vola verso te. Chiudo gli occhi ed incomincio a immaginare di parlarti, raccontarti e ridere, e baciarti e stare ora a far l'amore con te. Ma l'orgoglio che non lascia la mia mano, e vorrei chiederti scusa e perdonarti, ma non riesco più nemmeno a non pensarti, e non vale proprio niente il mio perdono. E tu dormi e vorrei tanto svegliarti e giurarti finalmente che ti amo, che ti amo.